Per ciò che riguarda la ripetizione dell'Amidah, abbiamo qui Siman Kaf, il 20° capitolo del Kitzur, dove si espone la regola riguardante questa cosa, la ripetizione dell'Amidah, da parte dello Shaliach Tzibur, dell'officiante. Prima halakha, che se possea Shaliach Tzibur mit fila shebelachash, quando l'officiante, lo Shaliach Tzibur, ha concluso la sua tefila personale e possea, fa i passi, cioè concludendo la midà fa i tre passi indietro. Omed bimkomo, rimane nel posto in cui, la posizione in cui è arrivato dopo aver fatto i passi per qualche momento, che shiur hiluch arba amot. Seguite il testo, ragazzi. Segnate le traduzioni, imparate, dai. È una lezione per tutti. Che shiur hiluch arba amot. Come quanto tempo dura è necessario per percorrere 4 amot, 4 cubiti, 2 metri circa, quindi pochi momenti. Poi, avendo atteso questi pochi momenti, per iniziare l'amidà, cosa deve fare? La ripetizione. Joser Limcomo torna avanti al suo posto, punto di partenza. E Omer Belachash dice a bassa voce: Hashem sefatai tiftach ufi agiti latecha. In alcune usanze lo dicono ad alta voce, dipende dall'usanza. Umatchil bekol, e inizia a recitare ad alta voce Baruch Atah, quindi l'inizio dell'Amidah, e tutta l'Amidah. Ora, coloro che ascoltano la ripetizione, bekol echad yizaher, ognuno dei presenti deve fare attenzione e sforzarsi, l'ishtok, di stare e rimanere in silenzio, as, in quel momento, da quel momento, velishmoa hetev, e di sforzarsi ad ascoltare con attenzione, ulechaven, e non solamente ascoltare, ma riflettere su ciò che sta dicendo, riflettere su ciò che sta dicendo, lo Shaliach Tzibur, velomar, e rispondere nei punti giusti, Baruch Hu o Baruch Shemo, quando sentiamo il nome di Hashem, diciamo che il suo nome sia benedetto, e Amen, la risposta di Amen dopo ogni Berachah, al kol Berachah Karaui, così come è richiesto. Bisogna fare quindi attenzione alla ripetizione, ed è vietato anche fare una cosa, anche se fosse importante, ora vediamo quale, Vafilulilmod, anche studiare la Torah, mentre l'officiante ripete l'Amidah, tu dici: io ora vedo cosa c'è scritto nel Talmud di oggi, o nel Chumash di oggi, cosa dice Rashi, tanto lui sta ripetendo, io già l'ho fatto l'Amidah, e mi leggo qualcosa di interessante sul Talmud o qualcosa così, uno studio, afilu l'ilmod asur, persino studiare la Torah è vietato, b'sha'a she'tzaliach tzibur chozer tefilah, nel momento in cui lo Shaliach Tzibur ripete l'Amidah. E se è vietato studiare la Torah, non è quindi neanche necessario indicare, dire che bisogna fare attenzione a non parlare qualcosa che è una banale chiacchiera. Inoltre, chi può farlo facilmente è bene di stare in piedi anche. Yeshlo la mod. Bene, se può rimanere in piedi, come se lui stesso fosse in mezzo all'Amidah. Se non è difficile, cioè non è un obbligo assoluto, però è bene per aiutare la concentrazione. O beinai matsumot, o con gli occhi chiusi per non distrarsi, o liroto hasidur, oppure leggere nel libro, seguire con gli occhi ciò che sta leggendo lo Shaliach Tzibur. In questa maniera aiutare la concentrazione e il seguire la ripetizione. Adesso lui cita un'usanza che non è molto diffusa, non si vede spesso, che tzat noagin, alcuni hanno l'usanza, sheleachar kedushah, che dopo aver fatto la kedushah, quindi nakdishach venaritzach, e dopo che si conclude con la berachah, baruch at Hashem, hakel hakadosh, alcuni usano che in quel momento cholzin tefilin sherashi, tolgono i tefilin, che sono quelli di Rashi, quelli che tutti mettono, e mettono a quel punto i tefilin di Rabbeinu Tam, il secondo paio che molti mettono, lo fanno a quel punto. Allora lui dice, Veosin shelo kadin, questo è contro la regola. Questo non si può fare in mezzo alla ripetizione. Perché interrompi così? Perché interrompi. Dovrebbero farlo in un altro momento. Dopo tutte le attenzioni che abbiamo detto di avere. Esattamente. La differenza tra Tfilin di Rashi e di Rabbeinutam qual è? La differenza sta nell'ordine delle pergamene, nell'ordine della Parashiot. Visto che ci sono quattro brani della Torah nei Tefilin, Shema, Vehaya, Kadesh, Vehaya, Kiviacha, quattro brani, c'è una discussione tra i Chachamim, qual è l'ordine con cui bisogna scrivere nei Tefilin questi quattro brani. Un gruppo di Chachamim rappresentato da Rashi, un altro gruppo di Chachamim rappresentato dal suo nipote, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Yaakov Tam, e quello di base è quello che è l'opinione di Rashi, che tutti mettono i Tefilin secondo questa opinione. E lo Shulchan Aruch dice che chi è Yerei Shamaim, ebbene se mette anche un secondo paio di Tefilin, che è quello di Rabbeinu Tam. E in questo ci sono anche diversi modi in come si mette. In alcune usanze di alcuni sefarditi mettono i due paia di Tefilin contemporaneamente, cioè sono fatti molto piccoli e in modo che possono rientrare entrambi insieme contemporaneamente sulla posizione giusta, sia sul braccio che sulla testa, e mettono due, uno, due, uno, due, insieme. Altri, come avete visto, magari qualcuno, dopo la tefilà, toglie un tefilin di Rashi e mette tefilin di Rabbeinu Tam, dice lo Shema e qualche altro brano. Quello che del, tu. Sì, della Torah. Qualcuno era lui. Ho visto che chi li mette insieme... ha detto che copre quello di Rabbeinu Tam col Talled per un fatto, diciamo, di discrezione rispetto agli altri, per non far vedere che c'è il secondo. Okay. Così questo si chiama spiegato, cioè. Nel linguaggio del Talmud si chiama Yohara, per non essere per non vantarsi, guarda, diciamo, per non farsi vedere. Allora uno viene coperto bene. Scusa, ma sì, ma Rabbeinu Tam, cioè, bisogna vedere le caratteristiche per metterli o chiunque lo può fare proprio Ok, approfondiamo un attimino dopo questo, sì. Che adesso stiamo parlando della ripetizione. Ho fatto solo una parentesi, poi possiamo tornare. Numero 2, secondo comma, Bachazarat filat shliach tzibur. Nel corso della ripetizione della tfilà da parte dell'officiante, kevan she shliach tzibur kvar itpalel, visto che lo shliach tzibur ha già fatto la propria tefilà personale namida, belachash, a bassa voce. Perché la ripete? La motivazione della ripetizione è per chi sente, per chi non sa come fare la tefilà da solo. Veino chozer et tefilah rak bishvil hashomim. La ripetizione è per coloro che ascoltano, non per colui che la dice. Ok? È una funzione, è un servizio per gli altri, non per sé, come base dell'idea della ripetizione. Perciò ci deve essere chi ascolta. Se non c'è chi ascolta, non c'è motivo per la ripetizione. Di conseguenza c'è anche una, diciamo così, indicazione chiara su cosa vuol dire che c'è chi ascolta. Lachen, perciò, tzrichim sheyu davka tish'a shomim veonim. Ci devono essere come minimo 9 persone che ascoltano e che rispondono alle berachot. Amen, come minimo. Shelot yena birkotav levatala, perché se no si rischierebbe che le sue berachot siano come considerate delle berachot in vano. Velachen, e perciò, che se yesh minyan metzumtzam, quando c'è un minyan preciso, cioè che sono esattamente 10 persone, compreso l'officiante, allora tzrichim leashgiach, bisogna fare molta attenzione, che appunto se lo yatchil, shaliach atzibur, chazarat atfilah, che lo shaliach tzibur non inizia la ripetizione della midah finché non sono tutti pronti a rispondere. Vuol dire, se uno sta in mezzo a fare la midah non può rispondere, bisogna aspettare. Se sono 9, a parte lo shaliach tzibur, bisogna che tutti siano in grado di rispondere prima che si inizia la ripetizione. Acigberu kulam tfilotehem sheyuchlu lanot, che possano rispondere dopo aver finito le proprie tefilot della midah personali. Numero 3. Shaliach tzibur, un shaliach tzibur, tzarich lehizaher, deve fare attenzione, che shehu mesayem beracha achat, quando conclude una beracha, e quindi tutti devono rispondere amen, giusto? Mm-hmm. quando l'officiante ha finito una bracha, tutti devono rispondere amen. Lui deve dare il tempo, lo spazio per poter rispondere amen senza iniziare subito la prossima bracha. Ok? Shelo lehatchil bracha shenia, di non cominciare la seconda, quindi la successiva bracha, ad leachar sheamru rova tzibur amen, finché la maggior parte del pubblico ha detto amen. Perché dice la maggior parte? Dice, se c'è uno che risponde amen dopo 5 minuti non lo devi aspettare, però... La normalità, un momento per dare il tempo di, alla maggioranza del tzibur, del pubblico, di rispondere. Vim itchil tekef beracha acheret. E se subito l'officiante ha ripreso a iniziare la prossima successiva beracha, per esempio, kegon. Shesiyem ha concluso Magen Avraham e senza neanche attendere un secondo ha detto subito a Tagibor. Baruch Atah Hashem Magen Avraham, a Tagibor non ha dato il tempo. Allora, se è successo così, a posteriori, se così è accaduto, asai, che Ivan sheitchil omar ata gibor, shuv en omrin amen. Dal momento che lui ha già iniziato a dire ata gibor, noi non possiamo più rispondere amen. A cosa rispondiamo amen? Il amen è stato qui tolto da questo officiante che è stato troppo rapido nell'iniziare la bracha successiva. Noi non possiamo rispondere amen, ma dice una cosa interessante. Onesh bitul amen, la sanzione per l'omissione dell'amen, hu alav, ricade su di lui, sull'officiante, non sulla gente che non ha risposto, ma sull'officiante che non ha dato possibilità di rispondere. Molto interessante. Ora, quando arriviamo nella ripetizione dell'amidah, al momento quando si dice mechayeh hametim, abbiamo la kedusha nella ripetizione, giusto? Come bisogna comportarsi durante la kedusha, vediamo nel comma 4, bikdusha, bakdusha, yizaher kol echad, ognuno debba fare attenzione, avere cura, e chaven raglav, di accostare i piedi l'uno accanto all'altro, sheyush tehen beyachad, affinché siano uniti, che ilu ayu regel achad, come fossero un unico piede, un'unica gamba. Come Shenemar, che Moshe Neemar, come detto riguardo gli angeli, nel che Moshe Neemar veraglehem regel yeshara, negli Yeheskel, se non sbaglio è scritto, le loro estremità erano un piede, unico piede diritto. Visto che la Kedusha è una cosa che è detta dagli angeli, veofanim, vechayot, kodesh, è una cosa che noi ripetiamo quello che dicono gli angeli, allora siamo simili agli angeli, uniamo i due piedi come se fossero una. Durante la Kedusha quindi bisogna stare ai piedi uniti. Ukeshe omrim, kadosh, kadosh, kadosh, quando si dice tre volte kadosh, e quando si dice baruch, baruch kevod Hashem mimkomo, e quando si dice yimloch, yimloch Hashem lolam lokaich zion, eccetera, in questi cinque punti, quindi tre volte kadosh, una volta baruch, una volta yimloch, bisogna un po' alzare il talloni. Sollevare il corpo sollevando i talloni, ok? Quindi lasciare le dita dei piedi a terra, come, ma sollevare un po' dai talloni il corpo. Kadosh, kadosh, kadosh, baruch e yimloch. Chi salta proprio? Come fai? Venohagin, non si salta, si alzano un po' i talloni. Ok. Venohagin lisaha enaim lamarom, si usa anche, alcuni usano almeno, alzare gli occhi verso il cielo in questi punti. Ma vetov shetiena skurot, però chi alza gli occhi verso il cielo deve avere comunque gli occhi chiusi, non con gli occhi aperti come se cercasse qualcosa, ma rivolto verso il su, ma con gli occhi chiusi comunque per la concentrazione, eccetera. L'alzata, sì, prego. L'alzata dei talloni simboleggia, così sapevo, non so se... Sì, sì, sento. Come un momento di gioia, cioè non si salta però di... quasi di simboleggiare, salteresti se potessi, okay, per la gioia che hai, che ti stai rivolgendo, molto stai bene, sottolineando i valori di Hashem. Molto bene, questo può essere uno dei motivi. Un altro motivo è che, gioia, simile agli angeli, gli angeli attraverso queste espressioni si elevano di livello, salgono, quindi indica anche una salita. Anche questo. Allora, Kodem numero 6. Kodem Shomer Sim Shalom. Un'altra cosa che bisogna inserire nella ripetizione, che prima di concludere l'ultima berachah dell'Amidah, che è Sim Shalom, prima di iniziarla, Omer l'officiante dice Elokeinu velokeavoteinu barechenu, cioè si inserisce la berachà. Per ciò che riguarda la berachà, i sefarditi fanno ogni giorno la berachà col Kohen, se c'è la presenza di un Kohen. Ma nel caso che non c'è la presenza dei Kohen, oppure dagli italiani ashkenaziti, anche quando c'è il Kohen ma non è Moed, quindi quasi tutti i giorni dell'anno, il Chazan dice quale sarebbe la berachà dei Kohanim. Quindi non è la berachà, è una richiesta che HaKadosh Baruch Hu ci dia la berachà che è scritta sulla Torah che i Kohanim devono dare. Ecco perché si risponde Ken Yehirazon, non si risponde Amen. Quando c'è il Kohen si dice Amen, che quella è la berachà vera e propria. Quando non è la berachà vera e propria, cioè l'indicazione della berachà, il riferimento alla berachà, allora si dice Ken Yehirazon, sia questa la volontà del cielo. Quindi c'è questa, per questo motivo c'è questa diversità. Allora in quel punto si inserisce questa berachà, Ukeshe Omer Vishmerecha Omrim Makahal Ken Yehirazon. Quando dice Ivrecha Hashem Veishmerecha, cosa si risponde? Sia questa la volontà del cielo. Velo yomru amen, senza dire amen quando non è il Kohen stesso. Kohen, eh? Non ho capito, scusi. Però non vale come berakah, quindi. Vuol dire vale o non vale? No, nel senso. Allora spiego meglio. Così. Spiego che... meglio. Spiego meglio. Il Kohen ha un obbligo, una mitzvah della Torah che il Kohen ha di dare la conferire la berakah ai Bene Israel. Per questo motivo il Kohen, prima di dare la berachà, cosa fa? Recita una berachà. Asher kideshanu bikdushato shel Aaron vetzivanu. Noi abbiamo un obbligo, levarech, di benedire Am Israel, e poi benedice dicendo yevarechecha. Ok? Ora, visto che non si guarda il Kohen in faccia, da un lato, dall'altro lato non è permesso dare le spalle al Kohen, che una volta a Roma si usava così per errore, che quando il Kohen saliva in teva tutti davano le spalle per non guardare il Kohen. Questo è un errore, non si può dare le spalle, bisogna alzare faccia a faccia, però non bisogna guardarlo. Ecco perché molti usano di coprirsi con il tallet, così non lo guardi. Nel coprirsi con il tallet c'è anche l'idea di conferire la berachà a chi sta vicino a te. Magari un padre vuole in maniera simbolica dare la berachà ai suoi figli, allora li mette sotto il suo tallet, o un'altra persona. Tutto questo dipende dall'usanza. La halakha è che non puoi guardare il Kohen, la halakha è che non puoi dargli le spalle, la halakha è che la berachà è quella che il Kohen è obbligato a dare a noi. Quando non è il Kohen a darla, è un ricordo della berachà, è un riferimento alla berachà, non è la berachà stessa. Questo non vuol dire che un padre non può darla a suo figlio, perché usufruisce di quel momento per dare una berachà a suo figlio. E dipende dall'usanza. Non ha... Il discorso di avere il Levi che sostituisce il Kohen quando manca un Kohen è valido per il Levi non può sostituire il Kohen. No. Diciamo così, la Berachah la può dare solo il Kohen. Solo il Kohen. Levi no. A volte quando vogliamo dare la prima chiamata a Sefer al Kohen, non c'è il Kohen, la diamo al Levi. Per una questione di rispetto, ma non siamo obbligati a dargliela. Se c'è il Kohen siamo obbligati a dargli al Kohen e poi il secondo al Levi. Se non c'è il Kohen, non siamo obbligati a darlo per forza. Sì. Allora, v'chen k'shomer v'chuneka v'shalom, i tre punti delle tre berachot, la berachah si dice yirazon, o si dice amen, se è la berachah vera, vera, per dire se è il Kohen che dà la berachah. Però, ven omrim oto, rak v'shacharit u'be'musaf. La berachah la si dice solamente che sia con Kohen o senza, la si dice solamente nelle tefilot della mattina, cioè Shacharit e Musaf. Non si fa mai la berachah a Mincha, con un'eccezione. Esattamente. Perché non si fa la berachah a Mincha? E Davide lo stava dicendo. Che uno potrebbe aver bevuto. Allora, esattamente, se durante il pasto del pranzo i Kohanim avrebbero potuto bere del vino, quando un Kohen beve anche una minima misura come quella che è necessaria per il Kiddush, diciamo un revi'it si chiama di vino, tipo un bicchierino così, allora è invalido questo Kohen per la Avodah, per il servizio nel Beit HaMikdash. Se il Kohen deve andare nel Beit HaMikdash e ha bevuto, deve attendere o deve dormire finché finisce, passa l'effetto del vino. E poi può fare l'avodah. La berachà è una avodah come l'avodot del Beit HaMikdash. Certo, stessa cosa. cosa. La Berakha è l'unica avodà del Beit HaMikdash che ancora abbiamo adesso. Ok? E quindi la regola del vino si applica esattamente come si applicava agli altri servizi del Beit HaMikdash. Di conseguenza a Mincha non c'è la Berakha, che si dà per scontato che a pranzo si mangia bene anche con il vino. Devi dare tempo di smaltire. Bisogna avere tempo di smaltire. Questo è il motivo per cui abbiamo appunto l'eccezione dei giorni di digiuno. Rak betani tzibur, quando è un giorno di digiuno pubblico che tutti digiunano. Shomrim gambe mincha sim shalom azomer asher tzibur gam lo kenoteno. Allora, nel minna mincha dei giorni di digiuno si dice la berakha anche nella preghiera di mincha. Vein omrim oto beve, ben omrim oto bevet avel velo betisha be'av be'shacharit. Inoltre, nei momenti di lutto grave, cioè in una casa dove si sta osservando i sette giorni di lutto, oppure nel shacharit in particolare di Tisha B'Av, non si recita la berakha. Dimmi. Non abbiamo fatto hei. Ah, bravissimo. Scusate, abbiamo saltato un paragrafo. Solo David sta leggendo con noi. No, io pure, però. Sta scherzando. Perché non quest'ultima cosa che hai detto? Perché per il discorso del lutto. La berakha è una cosa particolarmente. Allora, dobbiamo tornare un attimino indietro. Infatti mi sono chiesto perché non si parla di Modim, però no. al numero Hey, al numero 5. Kishemagia shaliach tzibur le Modim. Quando lo Shaliach Tzibur ha finito la berakha di Amachazir Shechinato Lezion e abbiamo risposto Amen, allora si arriva alla berakha di Modim, che è una nuova berakha. La berakha di Modim, non solo lo Shaliach Tzibur, l'officiante, si china per dire Modim, ma tutti si chinano, Mishtachavim Kolakal, e Omrim Modim de Rabbanan, e dicono il secondo Modim, che si chiama Modim dei Maestri, Kulo Beishtachavaya, e lo si dice tutto l'intero con leggermente chinati. Ok? Ho visto che c'è una. Posso? Prego. C'è una. A me non mi è sembrata una sottile distinzione di testo fra i due. È diverso, certo che è diverso. Sì, è diverso, però. Infatti, si chiama Modim Drabanan, un altro tipo di Modim. Non così tanto diverso. No, non è tanto diverso, però. No, concettualmente è sempre diverso, ringraziamento. Però è un'altra formula. Se una persona sta facendo la sua amidà personale perché è arrivato tardi, ma l'ufficiante è già arrivato al modim, quindi ci sarebbe da rispondere modim, ma lui sta in mezzo alla sua amidà, non può interrompere, cosa fa? Se lui si trova in mezzo ad una berakha, cioè non all'inizio o alla fine o tra una berakha e l'altra, ma in mezzo ad una berakha, allora si china come tutto il pubblico, senza recitare. Non interrompe con la parola, ma si china con tutti quanti. Però, aval, im omed bitchilat bracha o besof bracha, se si trova all'inizio o alla fine di un brano, di una delle brachot dell'Amidah, lo ishtachave, non si deve chinare. Perché? Shum de asur le osif ishtachavayot bitchilat bracha o besof bracha. Noi abbiamo nell'Amidah alcuni punti in cui ci chiniamo, due volte all'inizio e due volte alla fine, la prima berakha dell'Amidah e la penultima. In quei due punti, che sono quattro, due per ognuno, ci si china. I Chachamim hanno detto lì bisogna chinarsi e non è permesso aggiungere altri punti. Allora se io sto alla fine di berakha e mi chino, anche se solo per aggiungermi, includermi nel modim, è vietato, perché è come se aggiungo un punto di inchino che non è stato indicato dai Chachamim. Ecco, chiaro? Si fa solo se uno è solo se uno sta in mezzo, non tra uno e l'altro. Ok? Per non aggiungere a quello che hanno detto i Chachamim. Hai visto quanto è importante? Alutan shamru Chachamim shamru, come abbiamo spiegato più indietro. Ora torniamo a saltare, arriviamo al numero 7. A proposito, sì? Dell'inchino, magari uno vede anche spesso, cioè molte persone dice, hanno un movimento continuo. Sì, questo non è considerato un inchino. No, però sì. In alcuni casi ho visto che proprio questo movimento a volte è molto accentuato, okay, e porta quasi come se fosse un inchino. Non c'è il rischio di poter Non è considerato perché è conosciuto, diciamo, è una cosa comune che molti si muovono, hanno questo movimento durante la tefillah, chi più, chi meno, chi in maniera più accentuata, chi meno, ma non è l'inchino, perché se tu vedi, Poi dopo quando quando è il momento dell'inchino è diverso il movimento, giusto? Sempre. Sì. Io volevo chiedere, in realtà cosa rappresenta il fatto di inchinarsi? Poi non può essere una Ok. cosa di rispetto, se no uno si Perché inchinerebbe no? tutte quante il No. 18. Non è così. Eh sì e no. Tu volevi dire qualcosa, Sì, Stefano? però io ho una domanda in Simile? ritardo sul punto 2 collegata a chi arriva tardi. Ah, chi arriva tardi. Ok. No, l'inchino è rispetto. Però non si può esagerare nell'inchino. E i Chachamim hanno dato un'indicazione quali sono i punti in cui bisogna chinarsi. È certo che è una questione di rispetto, è una questione che è legata alla prostrazione che si faceva nel Beit HaMikdash, quando si sentiva il nome di Hashem che è impronunciabile, eccetera, eccetera. È legato a tutto questo. Ma, visto che ci deve essere una indicazione chiara su anche la quantità, perché? Perché sennò si potrebbe esagerare. Potrebbe andare uno a dire io tutto il giorno mi inchino davanti a Kadosh Baruch Hu perché lo amo così tanto, perché non questo è il modo voluto. Allora, per questo i Chachamim hanno limitato, hanno indicato quali sono i punti più idonei, più giusti in cui farlo, e sono quei quattro. E per questo abbiamo detto che è così importante che anche fare un modim, neanche un vero, solo per unirsi al pubblico, se può sembrare che stai aggiungendo a quelli indicati, non si fa. Se non torniamo al vitello d'oro. Allora, la domanda di Io Alberto. adesso che hai detto chi arriva in ritardo, avevo una domanda in ritardo sul punto 2. Ah, la domanda è in ritardo. Una domanda in Ah, ritardo sul ok. punto 2. Nel caso in cui se sia 10 giusti, il Minyan Sì, sia in linea, Minyan compreso l'ufficiante, Metzumtzam. quindi compreso l'ufficiante, e si debba essere, tutti gli altri 9 devono aver finito e essere pronti a rispondere alla ripetizione. Se in questi 9 c'è uno, il Minyan c'è perché è arrivato uno in ritardo e è in un momento in cui non potrebbe unirsi alle risposte, crea problemi a tutti quanti. Sì, crea problemi, però a posteriori l'Amidah è valida anche senza quei 9. A posteriori l'Amidah è valida in casi di forza maggiore, di causa di forza maggiore, l'Amidah potrebbe essere valida anche senza la risposta dei 9. Ok? Però in casi Oltre al eccezionali. ritardo crea problemi Casi uno. eccezionali, sì. Una cosa, visto che parliamo della tefillah della mattina. E, se uno arriva in ritardo e il pubblico già sta avanti e comincia a fare la tefillah, ok? Sì. I punti, quello che quando uno sta da solo non li dice, tipo il Barekù, Non li dice. non lo dice perché sta facendo comunque la Quello si tefillah dice da solo solo, insieme al insieme al pubblico, non pubblico, quando perfetto. c'è presente un pubblico, quando stai Ok, pregando con il pubblico. perfetto. Ok. Numero 7, e concludiamo. Le'achar shegamar shliach tzibur ha'tefilah, dopo che lo shaliach tzibur, l'ufficiante, conclude la sua tefilah, lui dice a bassa voce il versetto conclusivo, Yomar belachash, yu lerazon imrefi, ve'egyon libi lefanecha. Yule Razon. Però questo Yule Razon lo dice appunto a bassa voce. Se è un giorno in cui si dice Tachanun, dopo che dice questo versetto, inizia a dire Tachanun. Se è un giorno in cui non si dice Tachanun, allora dopo che dice questo versetto, dice il mezzo Kaddish e lo dice appunto a bassa voce. Però, enomrimot avalifsoa shalosh psiot enzarich. Ma lui non deve più fare tre passi indietro per la seconda Amidah, per la ripetizione, non fa tre passi indietro, semplicemente dice Yule Razon e così conclude la ripetizione. Shesomech ala psioche besofa kadisha shalem. Perché? Non perché non deve, no, non perché non deve fare tre passi alla fine della Midah, perché la Tefillah conclude ufficialmente quando dice il Kaddish Titkabbal, quello dopo Valezion, e il Kaddish Titkabbal conclude con i tre passi Oseh Shalom. Quindi non deve fare due volte alla fine dell'Amidah e alla fine di Titkabal. Lo fa una volta dopo Titkabal. Perché è considerato tutto un blocco, Titkabal, sì, esatto. Tutto il blocco è che finisce inglobato nella ripetizione, il dopo che Kaddish. finisce Uvale Zion. Non che. Come? Cioè, No. è come fosse figurativamente inglobato nella ripetizione il Kaddish di Tabal. Non diciamo nella ripetizione, diciamo la completezza della tefilà a livello di alachico conclude dopo Uvalezion, e di conseguenza il Kaddish che segue Uvalezion è un Kaddish in cui c'è la frase Titkabal, che vuol dire chi Titkabal? Titkabal vuol dire che sia accettata la nostra tefilà, quando si chiede che sia accettata dopo che è conclusa. Quindi il Kaddish Titkabal si dice non dopo la Midah, ma dopo Uvalezion. E allora, visto che dopo la conclusione della tefilah, la richiesta dell'accettazione, si fanno i tre passi indietro nel Kaddish, allora quelli sono i tre passi indietro che riguardano anche la ripetizione. Ok, signori, con questo concludiamo. E se Dio vuole, di aumentare sempre lo studio della Torah.